fragile, la nostalgia è tuo fragile, Brasil sta lì, l'Italia chi? Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Toda gioia, toda bellezza. Neymar! Sull'inversione di Luis Gustavo, che recupera palla sulla fascia laterale, la mette dentro, un assist perfetto. Toda gioia, toda bellezza. David Luiz in porta, i due centrali del Brasile, prima Thiago Silva, poi David Luiz, 2-0 con un gol pazzesco di David Luiz che porta di due gol avanti il Brasile adesso. Toda gioia, toda bellezza. È só isso. Não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Müller, dentro, Ovedes, la mette giù, poi cerca il tiro, è 7-0 di Schürrle, 7-0 di Schürrle, 7-0. É demais, é pesado. Vergonha! Defeat. Demi-finale tragique pour les Brésiliens. Derrota. The worst defeats in Brazil's history. Brasil humillado en su mundial. Inconsolable. And who would have believed that Brazil slumped to their worst defeat in World Cup history? Implacable humillación. Shocking 7-1 defeat. I have nothing left to say. It's only words. Do what I do. Só queria poder dar alegria ao meu povo. A minha gente que sofre tanto já com uma das coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo. Desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Todos sabem o quanto era mais importante para mim. Ver. 800 24 00 24, meraviglioso, meraviglioso il racconto per voci, rumori, sensazioni di quello che è stato il Mondiale del Brasile e questa grande tristezza che oggi prende anche me, perché oggi poteva essere la vigilia della grande finale con il Brasile e invece siamo qui a parlare del ballo, del gran ballo delle perdenti, Brasile contro Olanda. Quella partita che forse per me cancellerei, perché una finale per il terzo e quarto posto al mondiale non serve a nulla se non alle televisioni, e che invece questa sera ore 22 saremo lì tutti insomma a guardare per capire anche e soprattutto se i brasiliani hanno superato lo shock di quel 7-1 e se in qualche modo sono disposti a perdonare i loro. 800 24 00 24, oggi ovviamente cominciamo anche già a vivere l'attesa della finale vera, quella di domani tra Argentina e Germania. Voglio il vostro pronostico, il mio lo conoscete dall'8 giugno, Germania in finale sull'Argentina e vince la Germania, quindi confermo anche oggi il pronostico, vince la Germania sull'Argentina. Carissimo Pier, dove sei? Sono a Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ti interessa, ti interessa qualcosa del ballo delle perdenti? No, anche se devo dire che appunto stavo sentendo quello che dicevi, sono d'accordo, nel senso che poi nella finale del terzo posto è completamente inutile. Questa volta un minimo di interesse ce lo può avere, perché insomma non capita spesso che nella finale per il terzo e quarto posto ci sia una squadra ospitante che si chiama Brasile, che ha perso 7-1 in casa la semifinale. Quindi dal punto di vista del un minimo di interesse, secondo me questa partita lo trova rispetto alle solite finali per il terzo e quarto posto veramente inutili. Questa qui almeno insomma la curiosità di capire se il Brasile è ancora sotto schiaffo, se reagisce, se riesce a regalarsi almeno questa piccola soddisfazione, secondo me è una partita sì, che ha, ha qualche motivo per essere vista. Poi sono d'accordo sull'abolizione del terzo posto, sono d'accordissimo. Sì, non serve assolutamente a nulla, Piera, a parte riempire una serata di palinsesto, e quindi va benissimo anche che ci sia la finale per il terzo e quarto posto. 800 24 00 24, io la guarderò togliendo l'audio dei commentatori, non me ne vogliano, terrò l'audio ambiente perché sono curiosissimo di sentire l'accoglienza a Scolari, perché ho letto un po' i giornali in questi giorni, i giornali brasiliani, e ho l'impressione che non sarà una passeggiata di salute. Oggi uno dei titoli ma più carini, più simpatici, prima pagina, foto di Scolari che passeggia per un campo, e gli scrivono: questo è un osso duro, non se ne va. No, questo per dire, poi anche Prandelli si lamenta per come è stato trattato nel dopo mondiale, ma anche gli altri non se la passano benissimo. C'è qualche argentino lì con te, o c'è qualche brasiliano, perché mi pare di aver capito che Rio de Janeiro sia diventata la capitale dell'Argentina. Sì, tra l'altro devo dire che ieri sera riflettevamo sul buon livello di sopportazione dei brasiliani, nel senso che insomma questi sono venuti con grande entusiasmo, continuano a cantare canzoni anti-brasiliane, continuano a prendere in giro per il 7-1, giustamente, insomma, fa parte del tifo, però padroni in casa d'altri, non so come dirti, quindi per ora è tutto liscio, per domani c'è un impianto di forze di sicurezza senza precedenti, speriamo che tutto finisca, ma insomma per ora c'è da sottolineare l'alto livello di autocontrollo dei brasiliani. Ecco, sì, roba da crisi di nervi, insomma, averli lì a Copacabana, per strada, che cantano, dimmi cosa si prova, ad avere in casa il papà, Maradona è meglio di Pelé, Caniggia, i sette, ho visto dei video anche di Maradona che gira per strada con questa, facendo segno dei sette. Domani secondo me può essere una giornata meravigliosa per i brasiliani, carissimo Pierre, perché se poi invece vincesse la Germania, come io pronostico, secondo me, anche il finale del mondiale prenderebbe un aspetto diverso per i brasiliani. Sì, beh, se vincono sì, se perdono non voglio neanche. Adesso siamo sospesi in questo stato in cui non sappiamo come andrà a finire, vabbè, domani sono d'accordo, certo, se vince la Germania, chiaramente a quel punto Argentina e Brasile praticamente finiscono pari il mondiale, nel senso che finisce 0-0, se però vince l'Argentina sono veramente non dolori. Poi insomma, grazie a Dio l'epoca dei suicidi per il calcio, insomma, se Dio vuole è finita. Sì, insomma, dovrebbe essere finita. Speriamo che la gente non capisca che 800 24 00 24, anche 349 238 6666, se volete scrivere i vostri messaggi. Germania o Argentina domani, chi vince? Poi tu lo sai, questa è anche la finale dei papi. Oggi carissimo Pier ha twittato Papa Francesco, non so se ne sei al corrente. No, però posso vederlo subito. Questa mattina i mondiali hanno fatto incontrare persone di diverse nazioni e religioni. Posso lo sport favorire sempre la cultura dell'incontro? Secondo me non l'ha scritto lui. Perché no? No, secondo me non gliene può fregare meno della cultura dell'incontro. Tu lo sai che il Vaticano ha organizzato anche una conferenza stampa per dire che forse il Papa non vede nemmeno la finale, e comunque il Papa è super partes. Ma di che stiamo parlando? Ma no, io invece posso dare un minimo consiglio di comunicazione, una comunicazione di questo Papa che è eccezionale, ma evidentemente non è che è la comunicazione eccezionale, è anche che lui è predisposto a questo genere di cose, e non sono un vaticanista, tantomeno un teologo, ma credo che comunque abbia dimostrato una vicinanza e un'umanità a tutta una serie di questioni molto terrene che secondo me gli fa onore, al di là di tante però lui domani sera la finale la vede, Argentina. Io fossi il Vaticano farei un giro di tavolo con i due papi che guardano una partita, sì, chiaramente i giornalisti se ne vanno, sarebbe meraviglioso perché sarebbe in linea con quella che è la, non voglio dire strategia di comunicazione perché sennò sembra una cosa artefatta, ma insomma con la personalità di questo nuovo Papa, che è uno che non si è mai vergognato, diciamo, di seguire anche delle cose futili e profane. E poi è argentino, domani tutti gli argentini, quanti sono? 200 milioni o quanti sono? Adesso non lo so, seguiranno la finale. 41 milioni, più no, Mascherano, ma... perché poi ne parliamo, perché c'è anche questa meravigliosa prima pagina di Olé sul vero leader di questa Argentina. Tu vedi, che... tu... che è Mascherano. Dobbiamo andare in traffico, Pier, stai lì, tanto abbiamo un'ora fino alle 18, 800 24 00 24. Maradona è meglio di Pelé. Tutti convocati. Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. È difficile affrontare questo momento, perché io tra l'altro mi ricordo che sono rimasto seduto un'ora dentro lo spogliatoio, quasi quasi, insomma, mi veniva da piangere, quindi aver perso una finale senza avere mai perso in campo. Lo stimolo maggiore è far segnare Schillaci per permettergli di conquistare il trono di capocannoniere. Poi ci fu questo calcio di rigore, Baggio, al momento del calcio di rigore, Baggio gli dette la palla e dice: toh, segna e vinci la classifica di cannoniere. Tiro, gol, Italia torna in vantaggio, sesto gol di Schillaci che diventa capocannoniere assoluto del campionato del mondo. Oh, questa è stata la nostra finale del terzo posto, perché anche noi siamo stati Brasile, Bari, 7 luglio 1990. Carissimo Pier, al dito 11, Aldo Serena c'era. Ciao Aldo. Voi. Ciao. Come stai? Ah, io bene, bene, adesso. Oggi ha fatto un tweet meraviglioso, Pier. Aldo, foto di Rio de Janeiro dall'alto, profilo di un uomo sospeso nel vuoto, impegnato in una traversata su un filo sottilissimo. E poi il messaggio: per i giocatori del Brasile la pressione è stata pari a quella di questo ragazzo, ma senza gancio di sicurezza. Poi ne parliamo, Aldo. Volevo sapere invece che cosa ti resta di quel 7 luglio 1990, il vostro ballo delle perdenti. Cosa vuoi, resta ancora una ferita aperta. Essere stato fra quelli che in maniera attiva hanno fermato l'Italia, un'Italia che ormai sembrava lanciata, eravamo i più forti, eravamo quelli che fino alla semifinale non avevano ancora preso gol, eravamo una squadra equilibrata che forse non faceva caterve di reti, ma eravamo sempre pericolosi. E siamo andati ai rigori perché abbiamo toppato quella gara e perché io e Don Odoni abbiamo sbagliato. Ma devo dire che in generale avevamo qualcosa in più, però bisogna dimostrarlo in campo quel qualcosa in più, sì, basta solo dirlo. Finale per il terzo posto, diciamo io e Pierre, esercizio inutile in un mondiale di calcio. Sì, assolutamente inutile, che fa male, che prolunga il dolore, che insomma immagino cosa possano essere stati questi quattro giorni per il Brasile, ad esempio, no? Per il clima che ci deve essere stato. Cosa furono per voi, Aldo? Guarda, eravamo in catalessi, non riuscivamo a scrollarci di dosso quella tristezza, limite della depressione, ma devo dire che sono stati molto bravi i dirigenti dell'epoca, Matarrese, il mister Vicini, che in una riunione ci fecero capire che se noi avessimo vinto quel terzo e quarto saremmo usciti quasi imbattuti, nel senso saremmo con quasi tutte le vittorie e solo quella, la sconfitta ai rigori. Se invece avessimo perso quella volta contro l'Inghilterra, probabilmente si sarebbe ridimensionato enormemente tutto il nostro mondiale, che fino a quel momento era stato quasi perfetto. E abbiamo capito la cosa e siamo andati in campo con la determinazione e la volontà di voler vincere. La partita fu bella anche perché l'Inghilterra giocò a viso aperto, c'era un ambiente a Bari di un certo tipo, ci aspettavamo forse anche qualche critica, che non c'è stata perché il pubblico ci incitò fin dall'inizio, e quindi secondo me mitigammo, ecco, quel quella sconfitta con l'Argentina arrivando terzi. Per il Brasile credo sia completamente diverso. Come ti aspetti? Anche tu, Pier, che sei lì, cioè, cosa vi aspettate questa sera? Cosa succede questa sera quando il Brasile arriva allo stadio, entra in campo per il riscaldamento? Che idea hai tu, Pier? Io penso che alla fine i tifosi saranno vicini alla squadra, però insomma questo non so se basterà a togliere le fragilità, che poi sono fragilità complessive di questa squadra, perché comunque insomma non è che fino alla partita con la Germania il cammino fosse stato perfetto, insomma, cioè, secondo me se io devo valutare a prescindere da tutto la Brasile-Olanda di oggi, io non so se il Brasile vince, nel senso che a me l'Olanda è piaciuta molto di più del Brasile in questo mondiale. Probabilmente l'altro giorno non ha avuto il coraggio per poter vincere la partita, non ha avuto neanche la fortuna, è stata una partita bruttissima 50-50, però insomma questa mi sembra un po' la sintesi, per cui secondo me ci sono delle difficoltà oggettive del Brasile al di là dello schiaffo psicologico dell'altro giorno, vediamo, ma insomma non è facile, non credo che il Brasile possa permettersi un'altra caporetto come quella dell'altro giorno, cioè non penso che ci siano i margini per assistere a qualcosa del genere, insomma, non penso neanche che gli olandesi saranno così spietati eventualmente come i tedeschi, che però ribadisco hanno fatto pienamente il loro dovere. Sì, speriamo almeno di vedere una bella partita, perché insomma, l'ultima immagine che ci è rimasta della semifinale tra Argentina e Olanda è stata davvero desolante, a parte i rigori che per definizione sono emozionanti. Ma la cosa più bella di questo mondiale sono stati gli ottavi di finale per ora. Sì, ma per distacco, perché poi dai quarti in poi si è vista grande tattica, grande attenzione, e però poco spettacolo, pochi gol. Aldo, torniamo al concetto di pressione, sei convinto che abbiano pagato solo quello i brasiliani, cioè questa grandissima pressione che poi li ha schiantati? Non solo quello, perché Fred è un attaccante non idoneo. Scarso, secondo me. Scarso, dai, lo diciamo noi. No, può essere bravo in alcuni momenti di gara, in certi frangenti, ma non un attaccante che deve partire dall'inizio, secondo me, in un Brasile. E però ci sono stati giocatori come Dani Alves, come Oscar, come Marcelo, che nelle loro squadre di club giocano in maniera completamente diversa, e lì secondo me la pressione l'ha fatta da padrona. Nel mezzo mancava un costruttore di gioco, si è affidato a dei cursori scolari, magari e probabilmente sbagliando. Però in un paese che vive di calcio, un paese che aspettava solo questo momento, i grandi campioni, anche se navigati, anche se pluridecorati, hanno toppato. E io posso capirlo, perché nel mio piccolo o grande, quando ho tirato quel calcio di rigore, ho avvertito tutto questo peso. Sì, ed è un peso che ti blocca. È un peso difficile da reggere. Domani invece Germania-Argentina, come la vedi? Beh, io spero che la Germania riesca a fare il proprio gioco. È difficile contro l'Argentina, che è una squadra molto tattica, ma gioca in maniera ostruzionistica in alcuni casi, ha dei giocatori bravissimi a difendere. Però ecco, Messi della semifinale, l'assenza di Di Maria, perché secondo me è difficile che giochi in quelle condizioni, avendo avuto uno stiramento al retto femorale, non credo proprio riuscirà a stare in campo, ad andare in campo, o se andrà in campo riuscirà subito. E davanti, insomma, per Higuain sarà dura conquistarsi qualche spazio e qualche possibilità di tiro. Sì, ti giro, Pier, qualche pronostico che arriva al 349-238-6666. Il vero problema dell'Argentina è che se non gioca Di Maria non hanno speranze, la Germania vincerà 2-0, questo è Mario da Treviso. Gabriele Trento dice invece attenzione, l'Argentina è molto carica, più di quanto si possa supporre, sarà un osso duro. Poi c'è chi dice la Germania asfalta 3-1 l'Argentina, vittoria ineccepibile. Poi ancora, a meno che Messi non faccia 3 gol domani sera, credo che verrà ricordato sempre un gradino sotto Maradona, perché poi c'è anche questo tema, quella di domani è la vera occasione per Messi di entrare nella storia. Poi oggi, Pier, abbiamo scoperto che in realtà l'Argentina ha un vero leader, che è Mascherano, perché quel titolo Mascherano e altri 40 milioni è un'assoluta investitura per un giocatore che evidentemente è il vero leader silenzioso di questa nazionale. Pier. Sì, sì, no, Mascherano è leader silenzioso, non mi intrigava molto, se tacco un pezzo sul Foglio online di oggi su Messi, perché veramente forse mai come questa volta è plastica, è evidente l'importanza di questa partita, cioè veramente il giudizio che noi daremo di Messi, o che fra 100 anni gli altri, noi non temo che non ci daremo fra 100 anni, daranno di Messi è legato a questa notte. Alla partita di domani non c'è altro, sì, diciamo, lui può anche ritirarsi alla fine di questa finale, cioè, sì, qualunque cosa farà in Europa da dopo domani non sarà sufficiente eventualmente, o comunque non aggiungerà nulla, nonostante i 6 scudetti vinti, le 3 Champions, i palloni d'oro, la media quasi di un gol a partita, la partita di domani è tutto o niente, cioè, se lui sarà ricordato come il nuovo Maradona e come uno dei 2 o 3 giocatori più forti al mondo, dipenderà da domani. Se domani dovesse perdere per qualche motivo e magari non brillare, alla fine Messi sarebbe, insomma, verrebbe ricordato come un fenomeno mostruoso, ma uno che non ha mai vinto il mondiale e che ha perso in finale, oltretutto. Ti è piaciuto Aldo Messi in questo mondiale? Beh, meglio dell'ultimo periodo con il Barcellona, però ancora lontano dalla sua forma migliore, anche perché non ha un supporto che ha il Barcellona. Il Barcellona ha un centrocampo che gioca per lui, che gli porta il pallone, che glielo porta anche in certe condizioni. Qui in alcuni casi deve rientrare a metà campo per costruire gioco, per riuscire a cucire un po' quella fase offensiva che latita per l'Argentina. Quindi, e poi insomma, le condizioni atletiche, fisiche, non mi sembrano quelle di un Messi al top. È arrivato con le gambe pesanti, a qualche cronista argentino lo ha anche confessato, ha le gambe pesanti, però ha 90 minuti per scrivere la sua storia. Grazie Aldo. Ciao a tutti voi. Ciao. Grazie Aldo Sereno, un abbraccio. Pier, tu stai lì, ci sono Massimo da Fermo, c'è Aldo da Pisa, ci sono altri pronostici che stanno arrivando anche via SMS, io lo ricordo, 800 24 00 24. Poi andiamo anche in Brasile per sentire come la stanno vivendo i brasiliani la vigilia di questa finale di consolazione con l'Olanda. Tutti convocati, 800 24 00 24, vogliamo il vostro pronostico su, beh, se volete anche su Brasile-Olanda di questa sera, ma soprattutto su Germania-Argentina di domani. Mi pare di capire che arrivano tanti pronostici che danno per scontata la vittoria della Germania. Io credo che di scontato c'è che domani non sarà una bellissima finale, sarà bloccata, tattica, non lo so Pier se tu la pensi così, io sono un po' pessimista, non ci divertiremo tantissimo. Però l'Argentina ha qualche colpo per giocarsela, ha soprattutto insomma Messi, vedremo. Sì, no, sono d'accordo, è una partita che rischia di essere abbastanza inespressa, abbastanza bruttina. Io ho in testa la finale del 90, nel senso che mi sembra che ci sia un po' gli stessi rapporti di forza che c'erano nel 90, cioè comunque la Germania è stata più brillante dell'Argentina. Detto questo, l'Argentina è una squadra che, esattamente come nelle notti magiche, fa giocare male tutti, e quindi riuscirà nell'impresa di far giocare male anche questa Germania. Certamente non, la Germania non troverà gli spazi, le voragini e le cose scellerate che ha fatto vedere il Brasile, insomma, non si troverà al 20esimo, se sarà in vantaggio di un gol al 20esimo sicuramente non avrà una squadra di fronte che gioca come se mancassero 5 minuti alla fine della partita, insomma, quindi da questo punto di vista io penso che davvero non sia semplice. E poi delle due, se ti devo fare un pronostico, ti dico Germania, ma ti dico Germania con grandissima fatica, insomma, e chiaramente poi se la partita diventa equilibrata, se comincia a diventare brutta, c'è anche spazio perché la giocata che stariglia la possa fare l'Argentina. Sì, a quel punto anche l'Argentina ha quel numero 10 lì, esatto. Ha quel numero 10 lì. Paolo da Mantova, Paolo 800 24 00 24. Paolo, buon pomeriggio. Sono qua, sì, buon pomeriggio. Prego. Volevo dire, perché non avete il coraggio di dire che Scolari è, a dir poco, non so, un leggero, io direi un demente, perché ce l'abbiamo, Oscar, ce l'abbiamo. Beh, un demente, Pierre. Un demente mi sembra eccessivo. Oscar, Fred, sì, è demente. Oscar, Pierre e Fernandinho, se va a Copacabana sulla spiaggia e prende i primi tre che vede, sono meglio di quei tre lì. Sì, e poi ma, come insomma. Fa, senza squadra, a dire attaccate dal primo minuto, che quelli là si ammazzano. Però Paolo, secondo me, detto che poi di Oscar noi passiamo l'inverno a dire che invece è un gran giocatore, che fa la differenza, i colpi e tutto, anche Fernandinho, insomma, non è l'ultimo scappato di casa. Secondo me, Pier, lì poi c'è che tutto il Brasile chiedeva al Brasile di essere il Brasile in quella semifinale, e poi diventa difficile mantenere l'equilibrio. Io credo che un po' l'errore sia anche stato questo, ma non è solo di Scolari forse, e poi Scolari ha sbagliato tutto, Ma no, che ci fosse un'ansia oggettiva alla prestazione è pacifico, che il Brasile non sia la squadra più forte del mondo e che dovesse invece dimostrare di essere la migliore, non si sa bene come, pure. Detto questo, io ieri sera ho intervistato Zico e sono d'accordo con lui, cioè lui a parte dice a questo punto convoca Kakan, nel senso che se sei in una condizione così disperata, di così poco talento, forse alla fine anche soltanto per intimidire l'avversario, per avere qualche giocata, qualche colpo in canna in più, Kakà poteva essere utile. Stiamo parlando di un giocatore che io penso personalmente che sia finito a certi livelli, però comunque sia, secondo me poteva essere una scintilla in certi momenti, anche dal punto di vista tattico poteva essere un giocatore che sparigliava. Ma la cosa che si è vista l'altro giorno è assurda, cioè vedere questa squadra al 20° sotto di un gol giocare come se mancassero 30 secondi tutti avanti è una cosa che non esiste, irripetibile, e certamente esiste, Scolari ne porta la responsabilità, cioè il Chievo, lo dico con rispetto, insomma, non so, una squadra di fascia medio. Sì, ma il Chievo nemmeno negli ultimi 30 secondi, però va all'assalto. Ho capito, ma è una virtù, ma sì, non è una virtù. È il Chievo o che ne so, o l'Atalanta. Voglio dire che qualsiasi squadra piccola, medio piccola europea ha una consapevolezza che comunque se prende un gol e mancano 70 minuti alla fine della partita, di cose ne possono succedere, anche perché ci sono le situazioni di palla inattiva, ci sono mille sistemi per provare a rimettere in piedi una partita. Ma il Brasile aveva bisogno di evidentemente di un inizio diverso e poi lì si è perso. Massimo da Fermo, Massimo. Buonasera. Prego. Allora, per me non è demenza, c'è un vizio all'origine. Il calcio sudamericano è convinto di essere superiore al calcio europeo. Mio padre era argentino e io sentivo queste cose da sempre. Il calcio sudamericano, il calcio argentino, il calcio brasiliano è superiore al calcio europeo. E tutto è un vizio all'origine. Allora che è successo? Che su 100 allenatori di lingua portoghese, 99 avrebbero fatto la stessa formazione che ha fatto il povero Scolari. Solo uno avrebbe fatto una formazione diversa in lingua portoghese. Cos'è Mourinho? Abbiamo fatto una formazione per poter non perdere quella partita con la Germania. Di conseguenza si è verificato quello che si è verificato. Tu lo sai, Pier, che in Spagna oggi hanno scritto che la prossima panchina del Brasile è stata offerta a Mourinho, che ha declinato. Poi c'è anche questo meraviglioso incrocio per cui 2 anni fa poteva essere Guardiola, che aveva dato la sua disponibilità. Chissà come sarebbe cambiata se sarebbe cambiata la storia di questo mondiale. Aldo da Pisa, io non lo so se i sudamericani sono convinti di essere superiori, certamente nei mondiali organizzati in Sud America lo sono sempre stati, fino a dieci giorni fa. Se ti ricordi, Pier, dicevamo questo è il mondiale delle sudamericane, nettamente superiori alle europee, sì, eccetera. Sì, questo è stato un bel ritornello e sicuramente allora innanzitutto è stato secondo me il mondiale delle sudamericane alternative, cioè noi abbiamo visto squadre come Cile e Colombia giocare veramente un bel calcio, abbiamo avuto questa anomalia di un tabellone che a un certo punto di 4 squadre sudamericane ne ha tirata fuori soltanto una, e quindi manca la controprova, perché non sappiamo per esempio come sarebbe andata se la Colombia avesse giocato contro, non lo so, contro la Francia per dirti, o contro il Belgio, queste cose non le sappiamo. Di 4 sudamericane che sicuramente avevano impressionato soprattutto Colombia e Cile, ne è venuta fuori una che è stata il Brasile, che in qualche modo ha passato il turno e poi è stata spazzata via dalla Germania. A me sembra che l'Argentina, la forza dell'Argentina, la cosa che l'ha tenuta in piedi fin qui è stato proprio il fatto di essere europea, dove per europea intendo questa attenzione, quasi questa fissazione tattica questa fissazione per l'equilibrio che è fondamentale, che nel calcio di oggi fa la differenza. Sì, è un po' più europea, è un po' più europea che sudamericana l'Argentina, così come la Germania non è la solita Germania. Da questo punto di vista sarà, credo, una finale particolare. E comunque, scusami, il calcio sudamericano non esiste per il semplice motivo che giocano, tutti in, giocano tutti in Europa, quindi ormai, cioè, non è un fatto di razza in senso proprio ontologico del termine, è più un fatto, secondo me, invece culturale, dove la contaminazione è talmente profonda che tu fai fatica ormai a distinguere i giocatori di scuola sudamericana da quelli di scuola italiana, insomma, gente. Sì, che... e questo può anche essere stato un limite. Io però resto curioso, Pier, di capire come oggi verrà accolto Scolari, come verrà accolta la nazionale brasiliana. E allora, sai che cosa facciamo? Abbiamo convocato un tuo amico, Luis Gustavo Monaco, giornalista grande. Di Estado do São Paulo. Ciao, Luis. Ciao, buonasera. Buonasera, buongiorno. Ciao, noi siamo a metà giornata. Cosa succede questa sera a Scolari, al Brasile? Come vengono accolti? Anch'io sono un po' curioso, perché i tifosi sono arrabbiatissimi dopo quelle sconfitte con la Germania, ma nel ritiro della nazionale, dopo la partita, c'erano tifosi con striscioni di sostegno ai giocatori, e Scolari ha detto ieri alla conferenza stampa che quando sono arrivati a Brasilia, dove passava il pullman, c'erano i tifosi che applaudivano, che dimostravano appoggio alla nazionale. Non so se è vero, ma vediamo allo stadio come sì, porterà. Dobbiamo aspettare qualche ora e poi lo scopriamo. Pier, ti lascio Luis. Sì, no, io Luis l'ho incontrato e l'ho anche intervistato al volo fuori dal Mineirao, quando eravamo ancora felici tutti, eravamo tutti felici, voi soprattutto, a me alla fine interessa poco, però insomma c'era un bel clima prima della tragedia. Come te l'aspettavi? Io volevo capire questo, ti aspettavi una reazione diversa dai brasiliani, nel senso che poi alla fine tutto sommato è stata una reazione composta, molto normale. Mi sembra che nel 1950 la leggenda dei suicidi dopo il Maracanazo l'abbiamo superata, grazie a Dio. Sì, mi è sorpreso un po', io aspettavo una reazione più, direi, violenta anche, ma non so, credo che fossero un po' anestesiati da quello che è successo, perché è stato un bruttissimo fallo, 7-2 in una semifinale, è stato davvero impressionante. Sì, anche difficile da realizzare. Quello che mi ha sorpreso di più è la conferenza stampa di Scolari ieri, che lui fa capire che vuole restare alla nazionale dopo il mondiale, dopo quella sconfitta. Sì, è praticamente impossibile. Però Luis, se stai lì un minuto, noi abbiamo il traffico, poi ti facciamo risentire, perché tu evidentemente l'hai sentita, anche quel fuori onda che sta facendo discutere il Brasile a proposito di Scolari. Traffico. Ma c'è scuola e a scuola da parte tattica, la forma di giocare, tu sono io. Então, o risultato e quem foi o responsável fui eu. Convocati. Eles foram sete vezes nos 10 primeiros minutos do segundo tempo. Se eu mostrar o tempo, nós tivemos 4 chances de gol. Questo è Scolari, beccato da un fuori onda, sta parlando con un addetto della FIFA e gli dice: ma 7-1 è stata una fatalità, se noi nel secondo tempo avessimo fatto i gol che potevamo fare poteva finire 5-4. Carissimo Luis Gustavo Monaco, Estado do São Paulo, a parte che la faccia di Thiago Silva che gli affianco è tutto un programma, però mi risulta che i brasiliani ieri sera a ora di cena, quando hanno visto questo fuori onda, insomma, non l'abbiano presa benissimo. Sì. E non, sicuramente oggi, dopo la partita, Scolari parlerà di questo, perché a lui non piacciono i labiali e questo fuori onda che ha detto che se nei primi 10 minuti del secondo tempo abbiamo creato 4 occasioni, poteva stare 5-4. Sicuramente la squadra si arrabbierà con questo oggi nella conferenza stampa, farà un sfogo, se lo conosco. Sì, quindi ci sarà da seguire anche il dopo partita. Per chiudere, e poi saluto tutti e due, vorrei capire invece cosa pensano in queste ore i brasiliani di Neymar con questa sua dichiarazione d'amore per Messi. Spero che Messi vinca il mondiale. Ieri, prima pagina di Olé, Neymar è argentino, che credo per un brasiliano sia l'ultimo schiaffo, Luis. Esatto. Ma questo in Brasile, diciamo, è più probabile un brasiliano fare il tifo per l'Argentina che il contrario. Per l'Argentina sarebbe impensabile questo. Ma Neymar ha detto questo, secondo me, una dichiarazione politica, perché gioca con Messi, gioca con Mascherano, ma non credo che farà il tifo con molto entusiasmo per l'Argentina. Può essere che andrà a giocare a poker, sì. Andrà a giocare a poker, come ha detto che ha fatto sul 6-0, sul 7-0, sì, della semifinale. Sì. Ti saluto, Luis, grazie. Ciao. Luis Gustavo Monaco. Pier, saluto anche te, domani, giusto? Domani a partire dalle 17 ci risentiamo, avremo anche il risultato di questa meravigliosa finale di consolazione. Esatto. Però faremo ancora i pronostici su Germania-Argentina. Grazie Pier, ciao. Ciao. Aldo da Pisa, Aldo. Sì, buonasera. Eccoci. Il mio pronostico per domani è che si va ai rigori e vince la Germania. Ai rigori anche la Germania. La Germania ai rigori vince sempre. E poi perché ho notato che finora chi è passato ai rigori è sempre uscito il turno dopo i rigori. Cominciato a Costa Rica, che aveva eliminato la Grecia ai rigori, poi gioca e perde ai rigori con l'Olanda. L'Olanda ha eliminato ai rigori Costa Rica e poi è stata eliminata dall'Argentina ai rigori. Ora sarà l'Argentina che ha eliminato i rigori l'Olanda e sarà stavolta eliminata ai rigori. Sì, ci può lineare. Anche stare come ragionamento. C'è anche chi mi ha fatto notare, l'ottimo Giorgio De Luca, autore di questa puntata, che ad esempio, siccome Rizzoli è stato designato per la finale di domani al Maracanà, arbitro italiano, allora certamente in Russia nel 2018 l'Italia vincerà il mondiale, perché è sempre accaduto. 1978 Sergio Gonella, finale a Buenos Aires, nell'82 l'Italia ha vinto il mondiale in Spagna, 2002 Collina, arbitro di Germania-Brasile nel mondiale giapponese-coreano, nel 2006 l'Italia che ha trionfato a Berlino, e quindi potrebbe essere, chissà, nel 2018 ancora il nostro turno. Maurizio dalla provincia di Forlì. Maurizio. Salve. Salve. Niente, io vorrei fare una considerazione di questo genere. A me piacciono le persone brave ma tranquille, e a me l'Argentina, il Brasile, tutta questa enfatizzazione di quello che fanno non mi piace per niente, per cui tifo Germania al 100%. Vorrei che venissero i tedeschi a governarci, penso sono tifo Germania per la finale dei mondiali, quindi mille volte Germania. Sì, anche se non è brutto lo spettacolo che ci stanno regalando gli argentini. Io non so, ad esempio, c'è la canzoncina, il coro che sta riempendo le giornate di Copacabana, di Rio de Janeiro. Ha ragione Pierluigi Pardo, brasiliani che stanno dimostrando uno straordinario senso di responsabilità, perché pensate voi ad avere in casa tutti i giorni per un mese questa cosa qui. Dico, vince la Germania, questo è il mio pronostico, però sarebbe meraviglioso domani sentirli in 30, 40, 50 mila. Quanti saranno al Maracanà? Me lo fate sentire? Maracanà. Maradona, Esmas, grande che Pelé. Ci fermiamo, l'appuntamento domani a partire dalle ore 17, saremo in diretta fino alle 19, poi domani Radio 24 segue anche la finale con collegamenti speciali nel corso della serata con Dario Ricci. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Nicolò Rossoni in redazione, Valeria Bernardi in regia, domani alle 17. Quote e pronostici. Tempo di finale per il terzo e quarto posto ai mondiali brasiliani e questa sera alle 22 alle Stadio Nazionale di Brasilia c'è Brasile e Olanda, finale di consolazione per le due deluse delle semifinali che cercano un posto sul podio mondiale verde-oro, comunque favoriti secondo le quote SNAI. L'1, la vittoria del Brasile, è quotata a 2,20, l'X è a 3,70, il 2 invece con il successo dell'Olanda è quotato 3. Per questa partita sono interessanti anche le quote del gol a 1,47 e del no gol invece quotato 2,50, l'under è quotato 2,30, l'over 2,5, 1,55. È possibile sempre per Brasile e Olanda indovinare il nome del primo marcatore del match. Nel Brasile spiccano i nomi di Hulk e Fred quotati 7, Oscar è quotato 10, Hernanes e Bernard sono quotati 15. Nell'Olanda occhio alle quote di Robben e Van Persie, bomber implacabili spesso sotto porta quotati 7, Huntelaar è quotato 8, Snyder e Depay sono quotati 12. Questa era l'ultima delle quote di oggi. Noi ci risentiamo domani.